There's no more time. I hear it inside of people that love past seven on a lazy Tuesday morning. Something to say when I'm taking all around me first. Ooh, the only thing that I can still do is aiding hope and crying for you. Not you that I needed. So began another day of work, thinking of Huckle and the unique alphabet. Uncertain good times, the times that I get late. The cries of the amaze me as they are so plenty. They kept me awake at night. Ooh, the only thing that I can still do is aiding hope and crying for you. And in the meanwhile, a massive dose of sugar has filled my heart, and the pain is already forgotten. Ooh, the only thing that now I can do is living my own life and run away. Ok, prima parlavamo con Sven, abbastanza lirico questo pezzo, c'è un violino mi pare anche. C'è un quartetto d'archi. È un quartetto d'archi. Sì. E... bello, come mai il quartetto d'archi? Ma perché mi ha sempre affascinato, poi a me piacciono moltissimo i Beatles, per cui quando ho sentito Yesterday... Yesterday, Eleanor Rigby, esatto. Esattamente. Perché sei beatlesiano? Perché non esserlo. Ah, perché non esserlo? Beh, c'è no, chi è rollingstoniano, chi è beatlesiano. Beh, anche rollingstoniano, assolutamente. Okay. Però i Beatles veramente mi hanno... rubato il cuore. Anche se però la musica tua, almeno nei pezzi che ho sentito io, Beatles, sì, forse sono entrati in questo pezzo, ma gli altri no, non mi pare. Sì. sì, diciamo, vabbè, non è detto che non è detto in tutti i brani si sente l'influenza. Ma l'influenza, cioè qualche input, ecco, quello sì, possiamo sì dire. E quindi è abbastanza lirico. L'idea di fare questo pezzo, abbiamo già detto il perché, però musicalmente come è stata, come l'idea di farlo così? Mi piaceva un certo modo di suonare, che è appunto... così, non lo so, che è molto americano. Sì, no? Molto americano, sì. Molto folk. Poi anche il grande Dylan, per cui... E io, a proposito di questo, quando ho sentito il pezzo l'altro giorno, più di una volta, almeno i pezzi acustici e i pezzi con l'armonica, dal tuo demo, ho pensato a Woody Guthrie. No, Woody Guthrie, ad Arlo Guthrie, al figlio praticamente di Woody Guthrie. Conosco poco. Era Woodstock, giusto? Era Woodstock, sì. Certamente. Al figlio, che era molto, che è molto legato... Tutti sono molto legati all'armonica e alla chitarra in America, chiaramente è un DNA totale per tutti. Però a me ricordare in qualche momento, in qualche flash, Arlo Guthrie, così. Sì, una mia. Pop anche lui. Sì, all'inizio no, ma poi sì, è diventato abbastanza pop. Pop qui, gli ascoltatori forse non lo sanno, pop nel senso di popolare, cioè sì, questo, sì, intendiamo sì, questo, chiaramente. È abbastanza immediato. Sì, esattamente. Sì, sì. Ok, a proposito di immediatezza, 21:12, cosa ci fai sentire adesso? Come immediato, proprio? Adesso vi faccio sentire un brano che si chiama Grown, adulto, cresciuto, che ha un po' d'anni, ha già 5 anni questo brano. Che era sul cassetto, poi l'hai sviluppato, l'hai allargato. Sì, comunque una canzone che ho sempre suonato io anche nella band, solo e acustico, e quindi la porto in giro nel mio... Era tua praticamente? Sì. Ok, perfetto. E basta. Beh, sentiamo cosa dici. Ok. If one day you come in my own city, maybe I'll tell you my best friend name. It's got just one color and 1,000 conceits. But about this, I guess I won't talk, unless for some more. I'll get stuck with all in your hand, or I will tremble like the first time. Or maybe it will seem that I'm getting high, feeling quite into your smile. Surround my love, run, don't you listen to them. Thinking we have witnessed something that they said. My heart is getting older as my blood is running cold. I whisper to your moist lips made of gold. A friend, even the best, ain't enough anymore. Now I can't stand and say I have grown. Now in its hugeness I can't see the total sight, and it's filling me up with insecurity. That musician and the poet are laughing about me, and this infinity I want it now, you and me. The first lips are lighting, themselves falling down from the old and tired plane tree. Greeting me as a dying one looking was for. So I realize everything. So run, my love, run, don't you listen to them. The thinking we have witnessed something that they said. My heart is getting older as my blood is running cold. I whisper to your moist lips made of gold. Friend, even the best ain't enough anymore. Now I can't stand and say I have grown. Ok, sì, e qua non mi ricordavi molto Arlo Guthrie, proprio questo, per quello, anche questo pezzo no, io non l'avevo sentito, avevo sentito qualche altro dal demo, e qui mi ricordava Arlo Guthrie, ma è una bella cosa, Arlo Guthrie è un musicista, anche se adesso è un po' fuori del giro, è un po', non dico sconosciuto, però non così famoso come una volta. Giusto una canzone, per cui. Ecco, esattamente. Ok, benissimo, un pezzo molto interessante, molto americano, questo possiamo dirlo, al 100%, quindi il... Sei diviso a metà musicalmente, parlando un po' America, un po' Inghilterra, un po' in paesi anche, quindi... Alt country, brit rock. Ah, alt country, brit rock. Semestri, la fusione delle due cose. Ma qualcuno lo reputa anche un discriminante questa cosa. Perché? Nel senso, troppo caratteristico, nel senso che... Cioè, quando uno sente un arpeggio con la chitarra acustica e un'armonica, subito va a indicare una direzione. Fammelo un'altra volta sto arpeggio con la chitarra acustica, vai. È che discriminazione ci può essere così. Nel senso che invece tante... Vabbè, questa è solo un'opinione di qualcuno. Certo. Tu così fa. Piuttosto dovresti cercare di trovare una tua strada più personale. Mentre questo è un po' più generico forse, no? Beh, a me piace così, per cui lo faccio. Può essere anche generico, però all'inizio si fa sempre così, poi si trova la strada praticamente, si parte, cioè, tu sei partito musicalmente da solista da poco tempo, quindi stai sviluppando un discorso generico, sì, giro di chitarra lo fanno tutti quanti, però ognuno prende una propria posizione, un proprio modo di fare. Certo, poi. Certo. Beh, le note sono 7. Appunto, le note sono 7, però anche Stairway to Heaven deriva da 7 note, poi si sono sviluppate, però... Tutto parte da 7 note, ma questo non vuol dire assolutamente nulla. Quindi, musicalmente, e qualche altro tuo interesse musicale che può essere diverso da quello americano e quello inglese? Ma io ascolto praticamente di tutto, ma magari qualcosa di più estremo. Di più estremo, in che senso più estremo? Ma io in macchina ho i dischi degli Slayer, per esempio. Ah, però, sì. è un salto del fosso praticamente. Ma sono dell'opinione che la musica è bella nella è 360 sua, gradi. Esatto, sì. Perché darsi dei limiti? No, poi, insomma, non esistono i limiti. L'elettronica, l'hip hop, non lo so, ci sono cose interessantissime dappertutto. Cioè, basta esplorare, basta esatto. Sentire, basta ascoltare. Poi è chiaro che ognuno sceglie quella che è la sua direzione, però non deve precludersi nulla, insomma. Chissà che magari tra 5 anni sono un rapper, boh. Ah beh, perché no? Non è detto. Beck è un esempio di questo. Sì. Dimmi. Beck. Beck sì, è vero. Beck è uno che... Un grosso esperto di Beck, quel signore che adesso non parla stasera. Sì. Un grosso esperto di Beck. Sì, Beck ha fatto un Lui po' di tutto. Fregandosene di tutto e di tutti, mischia qualsiasi genere ed è fantastico secondo me. È vero, non ha preclusioni di sorta, sì. Va avanti in qualsiasi genere, distrugge, costruisce gli strumenti propri. Esattamente, aumenta, allarga, diminuisce, fa quello che vuole, però è un grande, un genio. Io lo trovo wow, grandioso. E non sono tutti semplici i dischi di Beck, Sì, esatto. Qualcuno molto lirico, molto pop, qualche altro, assolutamente, non dico inascoltabile, molto difficile, complesso, sì. Tortuoso. Ostico, hai detto una cosa giusta, ostico. Ringraziamo un momento Alberto Prisco, che è il nostro organizzatore e direttore artistico, che grazie a lui stasera sei qua a suonare. Un saluto ad Alberto. Proseguiamo. Io vorrei farti suonare un altro pezzo. Mm-hmm. Mm. Cosa hai scelto? So che ho scombinato la tua scaletta, però a Rockway o a Blue Radio Sera le scalette vengono sempre scombinate praticamente. Allora, il prossimo brano che già suonavo con la band. Silent Street, si chiama She Belongs to Me. Che non è il famoso pezzo di Tim Hardy cantato anche da Rod Stewart, non c'entra niente. C'è anche una She Belongs to Me di Bob Dylan, tra l'altro. Sì, c'è anche quella. E c'è anche un pezzo di Bob Dylan, c'è un pezzo di Rod Stewart scritto da Tim Hardy. Si rincorrono molto questo She Belongs to Me. Già. Ok, vai. Vado. Sta mettendo a posto, tutto dal vivo, sta mettendo a posto, sta levando l'armonica, come capita chiaramente, le cuffie danno fastidio qualche volta quando sono un po' strette, ma non c'è niente di preoccupante, siamo tutto in diretta, 21:20 e 52 secondi, ecco adesso partiamo. Hello. someone waiting for you, and just try to guess. This reminds me something that has happened before, and just wait and you'll see. Every time I see you, I'll die until I get something that it's more than life. She blows my mind. She blows my mind. Until my wishes will keep on fight. Cutting me, and I don't want to see. One day you said you're such a loser, and I said you belong to me. But every time I run into you, I'll die until I get something that it's more than my life. She blows my mind. She blows my mind. Until my wishes will keep on fighting. Somebody told me now you've changed, but I don't give a damn. Definitely once you get me, you hurt me with no mercy. I wish I was a little stronger, but I guess I can. At least until I keep on saying, she blows my mind. Blows my mind. She blows my mind. She blows my Ok, secondo me questo è un brano molto importante, perché ci hai dato molto pathos, molta partecipazione. È vero che era un brano importante per te? Sì, sì, sì, sì, sì. Anche questo è abbastanza vecchio. È abbastanza vecchio. Tra l'altro l'ho, diciamo, rimodernato di recente, perché ho scoperto che cantandolo un semitono sopra risulta più adatto alla mia vocalità. Tua vocalità. Sì. L'hai aggredito nel senso positivo del termine, sì, con sì, molta sì. Grinta, con molto, anche con un piccolo sapore di blues, è possibile? Sì, Sì, io l'ho sentito così. L'ho sentito così. Qualche sapore di blues. Con la band chiaramente lo facevi in un'altra maniera. Sì, era molto però più qua elettrico. È più elettrico, ma anche qua l'hai fatto elettrico, anche se elettrico anche per chitarra acustica, molto scheletrico, ma molto forte, molto potente. Mm-hmm. Vuol dire che ha un significato profondo. Sì, sì, diciamo di sì. Diciamo di sì. Ok, She Belongs. Il titolo era She Belongs to me. Lei appartiene a me. Significato molto interessante, molto profondo. Già la spiegazione, già la traduzione in italiana si capisce. Si può capire. E lo sviluppo della tua carriera solista sarà su questo genere, su questo tono, su questi pezzi così forti, così potenti? Ti ripeto, Maurizio, non lo sai. Non ho la più pallida idea, però sì, perché no? Perché no, questo mi viene abbastanza bene. Perché questo è venuto molto bene, secondo me, molto positivo. Sì. Anche gli altri, però gli altri avevano qualcosa di comune, questo no. Mm-hmm. Questo è fuori del comune, secondo me. Dà molta potenza, molta grinta, molta carica. Questo è positivo, io l'ho sentita così. Anche Marco, anche se non parla, asserisce ciò. Benissimo, 21 e 27 e 30 secondi, stiamo sempre parlando in modo piacevole con Sven Jørgensen. Il suo album Jørgensen alla Lombarda. Okay. Benissimo. Parliamo della tua carriera, dei tuoi brani, dei tuoi pezzi, che in un presunto nuovo CD che farai sicuramente, sì, un album da solista che verrà fuori, che uscirà. Sì, come ben sai è molto costoso fare un album, certo, quindi autoprodotto al 100%. Autoprodotto al 100% innanzitutto, poi senza una band, quindi ancora peggio. Squattrinato pian piano, però insomma. Com'è la situazione a Brescia a proposito, per quanto dal punto di vista delle band, degli artisti molto, come te? Molto bella, sì, molto molto ricca, molto, ci sono tantissimi gruppi, c'è tanto scambio, tanti locali che fanno suonare musica propria. Ecco, non ci lamentiamo. Non hai avuto difficoltà a suonare musica propria? Vabbè, le difficoltà ci sono sempre, poi perché non sempre si piace. Poi un locale chiaramente tende magari a volere un gruppo più rock, più rumoroso, no? Mentre io sono discriminato dal fatto che per il momento sono da solo e... Ma c'è anche la tastiera, vero? Sì. Tastiera e chitarra, che poi sentiremo più tardi. Sì. Quindi più situazioni intime, ma ci sono anche questo tipo di locali. Comunque, no vabbè, gli spazi non mancano. Quindi c'è una un crescita positiva a Brescia su questo? Sì, assolutamente sì. Non ti hanno mai chiesto di fare solo le cover Liga e Vasco, o no? No, questo no. Per fortuna no. Sei stato fortunato. Diciamo, se vogliamo dirla tutta, diciamola tutta, anche, dai, siamo qua. Faccio anche delle cover in giro, sì. Questo è giusto, mi serve come fonte di certo. Reddito. I nostri ascoltatori non lo sanno, ma quando abbiamo preparato lo spettacolo, cioè il concerto di qualche venuto fa, mi pare che tu abbia citato i Supertramp, è vero? Mi pare. No, non erano. Ho fatto un brano di Ben Folds. Ho sbagliato completamente. Non erano i Supertramp. No. Però i Beatles sì, li hai citati. Beatles, sì, quelli dobbiamo citarli sempre. Ma quelli per forza. Quelli per forza. Come mai un Ben Folds, che non è un musicista così conosciuto? Ah, ma non sapevo nemmeno lo conoscessi. Sì, ma noi di Rockaway conosciamo parecchia gente. Fantastico. Beh, diciamo che vogliamo spiegare un attimo. No? Sì, spieghiamo un attimo questo. Il perché hai scelto, hai provato, non abbiamo fatto sentire, hai provato così. Sì. No, vabbè, lui è un pianista americano, certo. Che fa pop, pop fondamentalmente, sì. Pop rock, aveva questo trio che si chiamavano, non so per quale motivo, Ben Folds 5. Esatto. Però erano in tre, erano un power trio e facevano questo appunto pop rock, però in versione... piano basso e batteria. Esatto. E io ho sentito il primo album, sono rimasto fulminato. È un grande musicista. Un grande, sì. Poi anche molto ironico. Cioè, sì, non so, si prende decisamente ironico. Sul serio. E si prende poco sul serio, però è bravo. Però è molto bravo, sì. Molto bravo. Così sei stato preso da questo musicista e hai provato. Qui abbiamo sentito prima che la trasmissione iniziasse questo pezzo di Ben Folds, praticamente. E dopo ho intenzione di suonare una sua cover, appunto. Ah, durante lo spettacolo che farai. Sì, qua in diretta. Ah, perfetto, benissimo. No. Questo intendevo, sì. Ah, sì. No, pensavo che lo suonassi anche nei concerti futuri che farai. Sì, sì, beh, sicuramente. Ecco, da positivo, quindi fai una cover di Ben Folds. Benissimo, sono molto contento. Adesso abbiamo dei pezzi che tu ci hai portato. Il primo pezzo che hai portato per farci sentire stasera, che titolo ha, ti ricordi? Il primo brano? Sì, il primo brano della... ok. Mi volete un attimo rinfrescare la memoria... Sì, possiamo leggerti i titoli? Sì, sì. Aspetta un attimo che mi posiziono, perché qua l'età ormai avanza. Allora c'è Julie 60, A jam session is something that I can't. Beh, possiamo mettere su un brano dei Silent a questo punto. Ah, perfetto, del gruppo. Così parliamo un secondo del gruppo. Sì, sì, sì. Quindi mettiamo su Midland. Sì. Ah, Midland. Sì. Allora sì, mettiamo sì, Midland. Allora, aspetta che la posizioniamo, visto che. E okay, niente, appunto sono. Poi vuoi parlare un secondo di questo pezzo che avevi fatto con la band? Sì, sì, sì. È un brano abbastanza molto melodico, ma comunque la melodia è una cosa che ha caratterizzato bene o male tutta la produzione dei Silent. Tu eri melodico musicalmente? Sì, parecchio. Mm. Sì, sì, sì. Adesso un po' sto cercando di sprezzarmi. Leggermente allontanarti, anche sì, se sì, la melodia è fonte alla base di tutto sempre. Chiaro, chiaro. Sì, sì, sì. E appunto questo qua è un esempio, insomma, Midland molto melodica e poi con il pianoforte, insomma, che rende il tutto abbastanza. Il pianoforte lo suonavi te nella band? Sì, sì, sì. Ok, adesso lo sentiamo assieme allora. Trying to remember how all this began. To be a real musician, to be just like you are. I had to put myself in mask and worry all the time. Change so fast because you sold your record to go before a dime. I had to put myself in mask and worry all the time. But to be like you, I did. Tonight the moment is mine. Tonight I'm stars, and never mind where you are, I'm gonna spend my time with you. Tonight the moment's mine. Tonight I'm against the stars, and never mind where you are, I'm gonna spend my time with you, just you. Time with you. Tonight the moment is mine. Tonight I'm Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ok, ci siamo. A proposito di Ben Folds, non era proprio Ben Folds, però qualcosa c'era? Qualche giochetto sul piano. Sì, sì. Ah, mi fa piacere. No, nel senso positivo, assolutamente positivo. Parlo sempre nel senso positivo. Perché la musica, come abbiamo detto all'inizio di trasmissione, la musica è a 360 gradi, non c'ha pareti, non c'ha divisioni, è libera. Sì, sì, sì. Ognuno può estrapolare, può pensare, può creare, assolutamente in libertà. Poi i generi, molto spesso sono i giornalisti, d'altronde gli addetti ai lavori che devono incanalare perché per motivi di per scrivere qualcosa devono incanalare, sì. Però non, l'idea non era proprio così. Dopo, chiaramente, non è mica niente di male incanalare, avere un riferimento, certi se uno vuole comprarsi i dischi deve leggere qualche recensione. Allora, se uno ama un genere, però può anche tentare di estrapolare, di andare al di là del genere. Ed anche così. Se poi mi viene da pensare al grunge, per esempio, che insomma certi gruppi non avevano nulla a che vedere l'uno con l'altro. No, assolutamente no. Tutti sì, perché venivano tutti da Seattle, oppure gli intorni di Seattle, cioè era un genere che poi ha tirato dai Nirvana in su o dai Nirvana in giù. Cioè, dopo è una questione anche economica. Madonna. Ecco, lui abbiamo. Ma perché devi parlare su certe cose? Che cultura di underground. Bellissimo. Ma sono un po' duretti quelli là, però. Sono leggermente duri rispetto ai Nirvana. Sì, Madonna, sì. Poi Soundgarden, che io ho adorato tantissimo al loro tempo. Vedi, è una cultura che si espande. Non, cioè, sì, acustica, ma acustico, sì, per modo di dire. Anche tu, non è prettamente acustica la tua cultura. Sì. Se penso che comunque sì, appunto. Ho adorato i Soundgarden, adesso ascolto Ben Folds, Bright Eyes, Beatles, cioè c'è veramente di tutto. C'è un po' di tutto, però possiamo dire una cosa, nonostante tutto la melodia viene sempre fuori. Mm-hmm. C'è una piccola vena melodica in tutti i pezzi che abbiamo sentito sotto, esiste, è fondamentale. Sì, sì, sì, sì, è la base. È la base di tutto. Come crei un pezzo, Sven, come lo crei un pezzo, come ti viene l'idea? Mm-hmm. È difficile, voi in vari contesti, tipo festival, appunto, stavo spiegando prima, sì, che la musica sta scritta a questo festival, in pratica. Esattamente. Si gozzovigliava al sole, ho preso la chitarra e l'arpeggio è venuto da sé. Anche lì viene in varie situazioni, in vari momenti, cioè come dire, non so. Diceva altri ragazzi che sono venuti qua tempo fa, ma molto spesso... Vabbè, scusami un attimo, nel mio caso nasce nel tuo caso sempre da una strimpellata, ecco, da un giro di chitarra. Sono io che mi metto così, esatto, e comincia il brano, mentre magari posso immaginare che chi fa magari musica psichedelica o space rock, jam rock, queste cose qua, piuttosto si mette lì ed improvvisa. Ma gioca col computer, dici te? Anche. Comincia a sperimentare finché nasce poi un'idea. Esattamente. E qualcuno diceva, alcuni musicisti sono venuti qua per estrapolare, per prendere l'ispirazione, se scrivevano i testi, scrivi anche i testi te praticamente, sì. Prendevano un taccuino un registratore per prendere subito l'ispirazione, perché se no volava, spariva. Chiaro, sì, questo. Io ho scaricato sul mio PC un programmino free che consiglio a tutti quanti. Ah, perfetto. È fantastico, si chiama Audacity. È in free download, poi è leggerissimo, non si impalla mai. E niente, programmino per registrare. Tra l'altro, chi ha, nel caso, una periferica audio un po' valida, riesce a fare anche cose piuttosto, diciamo, discrete, non professionali, ma discrete. E anch'io, anziché avere il registratore, uso quello. Ecco, esatto. Il microfono del computer e registro. In epoche, qualche tempo fa, l'ho già raccontato spesse volte questo aneddoto, ma è fondamentale secondo me. Buon Finardi, Eugenio Finardi, che tu conosci probabilmente. Poco, un musicista molto bravo degli anni 70, adesso negli anni 70, ha cominciato negli anni 70, poi è andato avanti. Siccome non c'erano all'epoca i telefonini o non c'erano i computer o i programmi, lui spesso e volentieri girava in treno e girando in treno aveva un taccuino e ogni volta che aveva l'ispirazione l'idea, scriveva sul taccuino l'ispirazione l'idea. Perché non doveva perderla praticamente, la recepiva così. Va presa al volo. Adesso ci sono i sistemi elettronici, ci sono i sistemi di recepire le cose senza fare tanti sforzi. Una volta c'erano i taccuini, il pezzo di carta. Leggo poco la musica, però talvolta mi è capitato sul lavoro di non avere apparecchiature per registrare. Allora, questo cos'è un La? Allora facciamo così, questo La diesis. Devo ricordarmi una cosa. Facciamo un mini spartito per quella poca conoscenza che ho. in modo da poi riportarlo in musica una volta a casa. Quindi si ritorna sempre alle origini nonostante tutto, anche se c'è la tecnologia, ci sono le cose nuovissime, le cose importanti. Ok, 21 e 42, cosa dici? Un altro pezzo live, sei d'accordo? Sì. Lo so che ti sto sconvolgendo la scaletta, ma qui i live sono cose... Non ci sono scalette, si suona e basta. Ok, ci provo. Questo qua è l'ultimissimo che ho scritto. Bene. E si chiama appunto Untitled. Ah. Untitled numero 2, senza titolo numero 2. Perfetto. E penso che ci rimarrà anche perché fa abbastanza folk singer, no? Molto folk singer, molto folk singer. Per cui... Since Cobus Smolders just walked into my life, things could no longer be the same. And we all knew this. Everyone knows how beautiful she is. I do not know if I started to watch or met your mother for a reason or just by chance. The fact is that I fell in love. Only years after I began to watch it again. Still remember a wonderful beauty, and again I fell in love again. And the reason was clear, left the guise of the band. And I could only find a little comfort in dreaming of living in New York City every time. Have to start again from the beginning every time. It's amazing how things can change quickly. They don't even give you the time to catch your breath. Like a boxer take a punch that sends him to the carpet. Just as he's about to rise. So someone said that I really am mine. And I could only find a little comfort in dreaming of living in New York City every time. Have to start again from the beginning every time. Ok, anche questo era molto vicino al blues, assolutamente vicino al blues, sì, decisamente, forse questo è l'ultimo pezzo che hai scritto, hai detto, sì, eh? Sì, quindi sì. Scritto da pochissimo tempo, e l'hai buttato in questa maniera, cioè l'hai estrapolato in questa maniera musicalmente parlando. Beh, secondo me è una cosa positiva. Bene, bene. Anche secondo me è positiva, perché appunto mi è stato fatto questo commento ultimamente, allora poi... Insomma, un po' di paranoia, no? No. Cioè, chissà, devo fare così, non devo fare così, alla fine faccio quello che mi pare e basta. Certo! Ed è giusto. È giusto che sia così, tu devi fare come ti senti, secondo me. Già. Un musicista deve sentire un pezzo, lo deve prendere subito e poi metterlo in musica, però lo deve sentire come prima. Proprio dentro, secondo me. Sì, quindi sì, è fondamentale. Sì. Il fraseggio mi è venuto così, l'ho adorato subito. Quindi l'hai subito estrapolato e via. 21:46, adesso facciamo il solito giochino. dei dischi da portare su un'isola deserta. Te l'avevo già detto prima di inizio di trasmissione. Sì, sì. E poi facciamo il giochino, poi sentiamo un pezzo da che hai portato e poi facciamo un pezzo con le tastiere. Esattamente. Ora, i 5 dischi da portare su un'isola deserta, a tuo piacimento, quello che vuoi. Beh, non è facile. Lo so che non è facile, sono tanti. Sono tanti, però tanta roba bella. Tanta roba bella. Sicuramente White Album dei Beatles. Assolutamente. Ci fermiamo un secondo. Tu hai scelto White Album. Qualcuno dice che il vero Sgt. Pepper è il White Album e non Sgt. Pepper. White Album però è completo perché c'è un po' di tutto dentro. Secondo me è magnifico. Adesso io non so bene quali siano stati le... cioè al tempo il motivo, anche perché poi se ci si pensa, insomma, da Rubber Soul in poi ci sono dei dischi veramente da spaccarsi la testa, come dico io, perché... tutti i capolavori assoluti. Sì, capolavori assolutamente, cioè tutti i potenziali singoli, tutti pieni di idee innovative, così. Boh, forse più il White Album, perché a parte, al di là del fatto che è doppio, che non è all'epoca era una rarità avere un disco doppio, il doppio bianco, doppio mitico, doppio bianco. Bisognerebbe sentirlo poi in vinile per per recepire meglio. Sì, sì. Adesso, cioè, il CD è bello, sì, perché è comodo il CD, però il vinile è un altro fascino, c'è poco da fare. Sì, adesso sì, che i vinili sono stati ristampati. E anche qua ce ne sarebbe da dire. Certo, certo. Quindi White Album dei Beatles. Poi numero 2. Numero 2. Boh. Non in ordine, non di numero solamente, sì, non sì, di... Sì, sì, sì. Che poi, diciamo, si può prendere uno di quei dischi che non ci si stanca mai di ascoltare. Dimmi, no? Quale? Vale in questo senso. Certamente. Visto che te li ho detti prima, facciamo Super Unknown dei Soundgarden. Ecco, Soundgarden è un altro gruppo molto interessante, molto forte, molto importante. Ha fatto un grande boom con questo disco, grandissimo. Poi... XO di Elliot Smith. Ecco, fermiamoci un secondo, grande Elliot Smith, se n'è andato un po' troppo presto, anzi purtroppo, troppo presto. Purtroppo, sì, chissà cosa avrebbe potuto fare. Tante cose secondo me. Grandissimo musicista, capito dopo come sempre, capito perché ha fatto una brutta fine, una tragica fine, però era un grande, era troppo, era malinconico ma allo stesso tempo potente, forte, aveva tante chiavi di lettura, era molto bravo. Una, tipo una concezione dell'armonia, della melodia tutta particolare, che è tutto da scoprire comunque. Non immediata, però no, non è immediata, giustamente formidabile. Si deve ascoltare attentamente, poi si capisce, si dice pisci, come un po' Nick Drake 20 anni prima, anche lui musicista non capito all'inizio ma poi è diventato un musicista straordinario, un musicista che è riconosciuto da tutti, insomma. Già, di Elliot Smith adesso mi viene in mente una cosa. Dimmi. Avevo appunto questo doppio New Moon, si chiama, che è uscito postumo. Sì, giusto, postumo, esatto. E quando l'ho ascoltato per la prima volta e ho detto, madonna che palle questo disco, tutto chitarra e voce. Però, e adesso in realtà penso sia il mio disco preferito. Ci vuole un po' di pazienza per recepire il tutto, però quando è stato recepito... Quando arriva. Arriva subito, arriva. Cioè, non arriva subito, arriva. Quando arriva, quando è il momento, ti fa cambiare sicuramente l'idea. Bel disco, veramente. Poi un altro... Forse OK Computer. È di Radiohead. Ecco, qui passiamo all'ambiente anglosassone, l'ambiente inglese, tuo ambiente inglese. Il Radiohead, Thom Yorke, hai scelto il disco più importante, più famoso. Qualcuno dice non proprio il più bello. Secondo me è bellissimo OK Computer. Per quanto mi riguarda è il mio preferito, sì. Perfetto. È il giusto mix tra, insomma... Lo sperimentalismo e il pop. Ecco, mi hai rubato le parole. Esattamente. Sì, sì, sì. Poi gli altri che hanno fatto più... di titoli dopo sono più sperimentali, sì, anche se faccio più fatica a recepirli, anche se l'ultimo che hanno fatto, quello che è stato scaricato, si poteva scaricare pseudo gratuitamente dando un determinato modo di libera. Sì, libera, esatto, e c'è un ritorno al passato in Rainbow, sicuramente in Rainbow, sì, esattamente, sì, c'è un piccolo ritorno al passato. Thom Yorke è un genio, questo anche se il disco solista non è prettamente alla Radiohead, è assolutamente diverso. È ancora più complicato. È molto complicato, secondo me. Poi ne abbiamo detti? Ne abbiamo detti 4, ne mancano ancora uno, sì. Boh, su due piedi ti direi il primo di Ben Folds. Ben Folds 5. Bene, benissimo. Anche se in realtà dopo mi maledirò fra un po', perché ho dimenticato sicuramente qualche perla, però vabbè. Sono 5, purtroppo 5 sono pochi. Non possiamo andare avanti fino a mezzanotte, chiaramente, però... Hai scelto 5, ci sono 5 momenti importanti per... Molto, molto bello, molto immediato quello invece, molto ironico, non so. Cioè, quella caratteristica di essere immediato, anche se non è mica semplice però in alcuni momenti. Certo, certo. È piuttosto complicato, cioè più che complicato, è piuttosto lineare, è piuttosto ricercato, possiamo dire questo. Però è bravo. Il bello, sì, sì, il bello, cioè l'impressione anche che di sentire tre ragazzi che sono lì e suonano e si divertono. Esattamente, cioè, sì, prima si divertono e poi suonano, questo è importante, è fondamentale. Sì. Ok, 21 e 52. Abbiamo scelto un pezzo dai pezzi che ci hai portato a te. Cosa scegli adesso? New Life. Ah, sì, New Life, altro brano dei Silent. Come lo facevi con i Silent? Duretto, cioè dal punto di vista rockettaro oppure no? Elettroacustico. Registrato, sì, sì. Chitarra acustica, però anche elettriche con amplificatori Saturi, quindi suoni quelli valvolari di una volta, quelli belli forti che hanno un bel suono. Ma la Fender ultimamente sta facendo delle riedizioni molto molto interessanti e io ne ho uno, anche molto costosi tra l'altro, sì. I valvolari? Sì, hanno un suono veramente eccezionale. Sì, ti dico ti faccio questa domanda perché l'altro giorno, scorsa settimana, quel gruppo che avevamo citato fuori trasmissione di Brescia ha portato... di Pavia, che aveva delle vicinanze con Brescia sul lago di Garda. Mm-hmm. E praticamente aveva un amplificatore valvolare, cosa meravigliosa. Qua lo aveva portato qua. Adesso le telecamere oggi non funzionano, però era un enorme bello da vedere e anche da sentire. Sì. Avrà fatto fatica a usarlo, immagino. No, l'ha usato bene. Cioè, l'avevano tirato su a un certo punto. Certo, l'ha tirato su in una certa maniera e poi è andato. Cioè, si sentiva bene, chiaramente. Mm. Era uno spettacolo solo a vederlo. Sì, sono già belli da vedere. Sono belli da vedere. Ok, sentiamo il pezzo allora adesso. Okay. Perfetto. Volevo solo dire una cosa. Dimmi. Ha scelto il disco dei Beatles che piace di più anche a me. Bravo, è vero. Soundgarden. Ecco, esatto, anche Soundgarden. Aside from me, well, it's just my children asking for some bread. Now that even last season's gone, life doesn't seem to turn me on, and this is damn strange. A new life staring at each other's eyes. Tell you now, life's become wet paper when I cannot read anything anymore. I'm soaking right sentences when time's soaking me. You know to be right. Why? Nothing but love, and you know. us why, to find no reasons why, nothing but Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ok, abbiamo sentito questo pezzo con la band. Pezzo, non dico lento, però abbastanza avvolgente, con questa armonica che dà un certo senso americano, ma nel senso positivo, ripeto, sempre nel senso positivo, mai negativo. Ci sono delle improvvisazioni, delle sensazioni, poi lo sviluppo era vostro, della band. Eravate in quattro, sì, mi sì, dicevi. Quattro. Due chitarre, basso, batteria, classico. E due cantanti? E due cantanti, sì. Come mai due cantanti una band? Perché all'inizio, vabbè, la storia era un po' questa, nel senso il progetto era più di Marco, l'altro cantante, e di un altro ragazzo che poi se n'è andato in seguito. Io ero entrato un po' a fare da polistrumentista, a suonare alcune parti di chitarra, alcune parti di piano. Poi ci siamo trovati in due chitarre e due voci. Ho detto, vabbè, cantiamo tutti e due, chi se ne frega. Certo. E poi, alternativamente, ci facevamo i cori l'un l'altro sui reciproci brani. La cosa positiva. Funzionava, sì, sì, funzionava. Beh, questo pezzo funzionava molto bene, si sentiva decisamente. Questo è un pezzo che l'hai scritto te, praticamente. Sì, sì, l'ho scritto io. Quindi suonava, hai scritto te chiaramente, quindi l'hai cantato anche te. Poi dicevi che l'altro cantante aveva un altro pezzo praticamente cantato. Sì, ho qualche brano anche cantato da Marco nel materiale che ho portato di là. Sì, dopo lo sentiamo. Dopo okay. lo ascolti. Adesso, visto che ci siamo, ti sei seduto al piano, sì. Per una cosa molto importante, una cover. Parlavi di una cover del musicista che tu ami particolarmente in questo periodo. Sì, una cover di Ben Folds al pianoforte, e l'ultima del disco che ho citato prima, Ben Folds 5. Certo, che è un grande disco, sì. Molto si interessante. Chiama Boxing. Perfetto, sei pronto allora? Sì. Ok. Pivot and sleep. I drop my fist on their back, laughing hour. My intentions become what I want. My ambition has given way to desperation, and I drop the fire from my eyes. Boxing's been good to me, Howard. Now I'm full, we're growing old. The whole time we knew, a couple of years I've been through. Has boxing been good to you? I'm scared, I'm lonely and tired. They seem to think I'm made of clay. Another day, I'm not cut out for this. I just know what to say. I say boxing's been good to me. Howard, now I'm full. We're growing old. The old time we knew, a couple of years I've been through. Has boxing been good to you? Well, sometimes I punch myself hard as I can, yelling nobody cares, hoping someone will tell you how wrong I am. Now I'm full. Boxing's been good to me, Howard. Now I'm full. We're growing old. The whole time we knew, a couple of years I've been through. How's boxing's been Sei bravissimo, eh. Pianismo di Benful non è molto semplice, sei stato molto bravo. Grazie. Come era difficile, il pezzo era difficile, ma sei stato molto bravo. Complimenti. Grazie. Hai sinceramente dato una tua interpretazione di un pezzo di Benful. Già, sì, ho cambiato anche qualche accordo, tra l'altro. Beh, però l'hai cambiato bene. Esattamente. La mia versione. 22.04 e 35 secondi. State ascoltando sempre Blu Radio Sera con Marco Borgato e Maurizio Calzavara e piacevolmente sentiamo la musica di Sven, come alla lombarda, Sven Jürgensen. Jürgensen. Ah, perfetto, lei è pensato tu alla lombarda, chiaramente. A proposito di lombardo, sai che Van der Stroff va al Festival di Sanremo quest'anno, sai? Veramente. Seriamente. E nei primi i nomi sono stati, non c'entra niente con Blu Radio Sera, però lo dico. Sì, sì. Vabbè, ci sono stati pure gli After Hours, per sono passati anche la Cruz, ci sono. Senza Giovanardi, però. Le vie del Sanremo sono infinite. C'è Van der Stroff con disco, dicono con un pezzo chiaramente in dialetto. Con un brano in dialetto. Chiaramente sì. In dialetto. E saranno i primi gli emergenti, sono nei big praticamente. Mm-hmm. Lo vedremo bravo, a febbraio. Bravo, bravo. Chi vedrà Sanremo, chiaramente vedrà anche lui a febbraio. Benissimo, ritorniamo alle cose nostre, alle cose di Blu Radio Sera. Questa era una cover di Ben Folds. Ti posso chiedere una cosa? Sì. Velocissimamente. Dimmi. Un altro pezzo al piano, un'altra cover veloce, minima minima, e poi riprendiamo il discorso tuo musicale, quella chitarra. Anche solo accennata. Anche solo accennata, quello che vuoi. Quella che vuoi, non a tuo piacimento. Caspita, adesso non. Lo so che rovino sempre le scalette, ma Blu Radio Sera. La tua ragazza ti ha suggerito? Il suggeritore. Tiny Dancer di Elton John. Blue jean baby, LA lady, dreams is for the band, pretty eye, a pirate smile, you marry a music man. Ballerina, you must have seen her dancing in the sand. Knock it on. E così via. Bene, boh, Elton sarà soddisfatto sicuramente. Ok, abbiamo sentito allora questi due pezzi al piano. Adesso non so se sei d'accordo. Io ascolterei un pezzo uno dei dischi, delle canzoni che hai portato. Sì, vogliamo far sentire Someday, è dei Silent Street, della mia band, e vabbè, questa la canta Marco, che è l'altro cantante, l'hai scritta sempre te anche questa? L'ha scritta lui questa. L'ha scritta lui. Sì, sì. Questa è completamente sua. E basta, insomma. E basta. La sentiamo praticamente. Ok, benissimo. Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. C'è poco da fare. Adesso hai dato una citazione mentre il pezzo andava. Adesso la citazione è... Allora, esatto. Ce lo dice. Chiaramente. Adesso mi ricordava un po' il lato dei New Order o dei Joy Division di Bernie Albrecht, che faceva i pezzi acustici, dove c'è anche il colpo di batteria, ricordava un po' i brani che stavano a metà tra i Joy Division e New Order, però quelli più acustici elettrici, non quelli di Peter Hook del basso. E a me ricordava proprio questa, che erano stati i pezzi più belli che poi hanno scritto i New Order dal primo album in poi, insomma. Capito. Ecco, sei d'accordo? Io purtroppo ho un buco enorme musicale che va tipo ma i Joy Division li conosci praticamente? Per fama più che altro. Per fama, per a dire il vero. No. Cioè, dire che non piacciono, boh, adesso mi arriva una bottigliata da qualcuno, no? Perché insomma sono dei grandi anche loro, certo, però molto. Non sono tanto nelle mie corde, ecco. Beh, insomma, con il tempo sì. Possono ritornare nelle tue corde. Ma anche discutevamo un giorno, a me non piace Janis Joplin, per esempio. La tua ragazza sì piace Janis Joplin? No. Faccio fatica ad apprezzare Janis Joplin, questa voce qua. Voce molto piena di blues, sì, sì, di rock blues. Molto rauca. Molto rauca. per tanti motivi, Racco, anche per tanti motivi. Ma allora non piace neanche Marian Faithfull? Allora? Marian Faithfull, ma lui è giovane. Vabbè, ma Janis Joplin è più o meno coetanea di Marian Faithfull, come sì, età? Lo so, ma lui ha solo 27 anni. È passata ai Rolling Stones? Sì, esattamente, era la musa dei Rolling. Sì, ma adesso non so se il penultimo o il terzultimo disco ha fatto un disco secondo me meraviglioso. Sì, sono d'accordo con te. Quindi... sono d'accordo con te, sì, Marianne Faithfull è la musa di Rolling Stone, As Tears Go By con le mie lacrime, Bon Mick Jagger e Keith Richards l'hanno scritto per lei, quindi si parla di molti anni fa, si parla del 1967, quindi molto tempo fa, però Marianne Faithfull è sempre stata una musa per i musicisti rock, soprattutto per i musicisti legati ai Rolling Stones praticamente, e lui citato giustamente Marianne Faithfull perché ha fatto un disco meraviglioso qualche anno fa. Una cantante che ha ormai una certa età, ma musicalmente è ancora validissima. Insomma, sì. No, non la conosco. E tra l'altro, io l'ho vista anche in un video con i Metallica, se non ricordo male. Vedi. Non ci sono. No, è giusto. È venuta fuori parecchie volte in questi ultimi 10-15 anni. Cioè, si è vista dopo che ha avuto un periodo un po' oscuro, anche perché ha avuto anche dei problemi. Ma insomma. Esattamente. Ha collaborato anche con nomi attuali, non solo con. Non parliamo solo degli anni 60. E quindi cade a pennello il discorso che tu hai fatto: la musica non ha confini. La musica è libera, libera in tutti i sensi, quindi Marianne Faithfull che collabora con i Metallica, chi potrebbe averlo immaginato prima, pure è successo chiaramente. Poi qualcuno mi ha suggerito il nome di Billy Joel, ho capito male? Grandissima. Joel, aiutami Maurizio, mi pare che abbia fatto una cover Billy Joel, no? Low Will Tear Us Apart, e di chi era? Bravo, vedi che ci sei arrivato. gira, alla fine. Arriviamo sempre là. Il buon Ian Curtis, lasciamolo stare, poveretto. Ok, Joy Diviso, ma adesso ritorniamo alla tua musica. Cosa ci fai sentire adesso? Questo è un altro brano scritto di recente, si chiama Talk to Each Other or Say Goodbye. Perfetto. You already know friends not enough, so and you will search for yellow and blue pills. Like you know what to do, to never trust a gift with smiles to everyone. You disappoint, and that's where it comes from. And I, a grain of sand, the one before your new eyes and mine. Should we begin to tell each other or say goodbye? Then you don't earn enough money to live on your own, so that's all you sound and you fall. A greener sound, one for your new eyes and mine. Should we begin to tell each other or say goodbye? Some jokes taste of nothing. You lost all your shine. And Carolina stays to hang out and make my come right. You already know a friend's not enough, so you will search for yellow and blue pills. To never trust, to give free smiles to everyone. You disappoint, that's where it comes from. And I, a grain of sand, the one for your new eyes and mine. Should we begin to tell each other or say goodbye? Or say goodbye. Eccoci qua. Questo che datazione ha questo pezzo? Cioè è recente o più antico? Molto, sì, molto recente. Molto recente, sì, quindi l'hai fatto da poco? Qualche mese fa. Quindi eri già solista praticamente. Sì, praticamente sì. Questa, dimmi. No, vabbè, mi piaceva molto l'idea del tre quarti, della ritmica tre quarti. Che... In soldoni, per chi non è molto esperto di musica, cosa vuol dire ritmica in tre quarti? È questo movimento ritmico. Adesso anch'io non è che sia espertissimo. Però ok, so spiegarlo. Sì. Un, due, tre, un, due, tre, un, due, tre. Tipo valzer praticamente. Un valzer, esattamente. Sì, sì. Un colpo in battere e due in levare. Quindi hai dato l'impostazione a questo pezzo così. Che, sì, è una cosa che caratterizza molti brani di Dylan. Certo. Tipo, adesso non mi viene in mente il nome. Come gather around people, whatever you're on. Times they are changing. Esattamente. Che è proprio l'inizio di carriera, 63, quindi sì. appena iniziata la carriera di Dylan. Si muove in questo modo e poi sto ripreso questa ritmica a tre quarti. Anche da tanti artisti recenti. Mi viene in mente De Gregori, ha fatto alcuni arrangiamenti live. Dylan italiano, molti erano sempre. Quando è uscito alla grande, dopo Teodos Campus con Antonello Venditti, hanno subito i giornalisti hanno scritto: questo è il nostro Dylan italiano, sì, chiaramente. Un po' il modo di cantare. C'è anche il modo di cantare. Lui l'ha sempre detto, non mi ha mai negato che si è ispirato. Dylan è sempre stato un suo punto di riferimento, quindi niente di inventato, è proprio così. Già, molto belli gli arrangiamenti dal vivo di De Gregori, caspita. È bravo lui. Altro, sì. Sconvolti dal vivo. Sì, qualcuno dice proprio sconvolti, proprio annullati, cioè non capisci. Non riesci più a capire qual è la linea del pezzo. Proprio completamente sono scomparsi, nascosti praticamente. Mm-hmm. La linea melodica è sparita completamente. Adesso che ha fatto quel famoso disco dal vivo dopo tanti anni con Dalla, questo tour Work in Progress, questo tour continuo, due anni di tour. Ha fatto i pezzi dal vivo, però non li ha sconvolti del tutto stavolta. In certi dischi sì, ma ha fatto tanti dischi dal vivo De Gregori, Sì, più di uno. Non lo so, sì ne ha fatti parecchi. E giustamente in qualcuno li ha completamente cancellati, nel senso positivo del termine. Chi piace e chi non piace? Uno che sente, sente rime totalmente cambiato, non so. Può fare ciò che vuole. Insomma, certo, assolutamente può fare ciò che vuole. Un artista del genere piuttosto che, non so, uno che... Che ripete sempre le stesse cose. Esatto. Sì, sì, e una volta c'erano le cosiddette coppie carbone, cioè delle cover, cioè facevano i pezzi in italiano, copiando i pezzi in inglese, ma totalmente. Per esempio, i Dick Dick, grande gruppo, non è che variava molto come faceva dal disco, come faceva dal vivo, era identico, esatto, assolutamente identico. Uguali. E era identico, ma non c'è niente di male, era un modo, un genere di. All'epoca si usava a far così in praticamente. Voglia. 22:20, io proporrei un altro pezzo da quelli ci ha portato e poi finiamo con suonando chiaramente. Ok, beh, non ne mancano ancora molti, diciamo Let Me Wait For My Better Days, dei Silent Street ancora, canta ancora Marco, io i cori e eccolo. Mettiamo quello là allora, sì. Quindi canta Marco, tu i cori praticamente. Sì, e... brano abbastanza intimo, batteria con le spazzole, pianoforte, chitarra. Bello con la batteria con le spazzole, sì. Interessante. Ok, lo sentiamo allora adesso. Life floating down like a memory. Here I go to get some for me. Away from my fears and my dreams slide away. So life floating down, but it's not for me. And I don't know why. Love. Of my dead love, difference dwells in your eyes. I need you, I need you, I need you. faster than my mind in chains. Life is just a sweep of light through the shutter. So love floating down, but it's not for me. Don't know why love can't change my mind. So drip on my heart, and you just don't love me. In you I look for the breath of my dead love. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Siamo verso la conclusione. Questa cavalcata con la tua musica, ripeto, in Lombard, Sven Jürgensen. Perfetto, io non lo pronuncerò mai. Senti, non ce la fanno. Non ce la fanno proprio. È una cosa strana. C'è anche un giocatore che giocava con l'Udinese, Jürgensen, mi pare. No? Sì, vero, mi pare sì. Che poi ci sono varie. Due varietà, non nel cognome, cioè Jürgensen e Jürgensen. Ah, però il tuo com'è praticamente? Il mio è Jürgensen. Ah, perfetto. Io non riesco a pronunciarlo. Tu sì, Marco? Jürgensen. Jürgensen. È una questione genetica, sì. Noi veneti, non vieni, almeno io, non noi veneti. Io. Noi bresciani dalle caverne abbiamo. Ci portiamo dietro questi suoni strani. Perché voi bresciani delle caverne? Ma non lo so, così. Sì, è una battuta. Bene, io ti ringrazio di aver partecipato a questa un'ora e mezza con Blu Radio Sera, con Marco Borgato e il sottoscritto al microfono, che abbiamo parlato della tua musica, del tuo modo di fare, del tuo modo di comporre, e le idee che ti vengono fuori praticamente, anche adesso, fra qualche giorno, un nuovo pezzo può darsi. Sì, sì, perché no? Beh. C'è tanta roba ancora abbozzata, per cui chissà. E speriamo un disco finalmente, sarà difficile perché economicamente pesante, però sì. Un disco da... Sai, adesso si fanno i dischi tutti fatti in casa, si può fare, si può... Sì, potrei anche provare quella strada. Potresti provare quella strada. E poi qualche concerto in giro, anche qua per esempio, non si sa mai. Sì, sì, sì. Beh, alla fine un po' di promozione si riesce sempre a trovarlo, come qua per esempio. Esattamente, sì. Noi siamo stati molto contenti di averti ascoltato, aver sentito la tua musica praticamente. E con cosa ci salutiamo? Ci salutiamo con un brano che suonavo nei Silent, anche questo si chiama In My Shell. E che quanti anni ha questo pezzo? Questo pezzo ha un bel 7 anni ormai. Ah, però era ancora prima della band. Ancora prima della band, sì. Avevi già scritto, l'avevi già messo nel cassetto, poi l'avevi sviluppato, l'avevi ampliato grazie alla band. Esatto. E poi l'hai rimpicciolito adesso o l'hai ampliato ancora? No, è rimasto più o meno simile. È rimasto, sì, non è mostrato. Però stavolta c'era solo la tua voce e basta. Voce e chitarra. Sì. Ok, grazie a Marco Borgato in regia, grazie a Sven. Grazie a voi. Jürgens. Perfetto, l'ha pronunciato lui. Con me ci sentiamo fra un'oretta. Adesso arriva un'oretta. Sì, perché arriva Stefano da Inese. Cosa fai fra un'ora? Perché fra un'oretta facciamo lo speciale natalizio che facciamo tutti gli anni. Va bene, vada via. Okay. Grazie e buonanotte a tutti per quanto riguarda Blu Radio Sera e un ascolto fra qualche minuto per qui di Rock Wave. Grazie mille. Grazie a te. Somebody with a gaze is going to kill me. Whether you like it or not, it's like this. Keep your eyes down, your head in sand. Nobody's going to hurt you today. You ask me a question, what you do in your life? The thoughts get stuck back into my mind, and a voice in my head that suddenly says I can rule in my space with a show you my face. So far away, there are shameless kids showing their smiles, but I don't feel like doing the same. In my shell, there's nothing to love, nothing to cry for. It's just a trail of past wine. For you, just like before. You told me that you still bear my necklace. I'd really like to see it if I could. I seem to remember your light and slow pace, your Dylan's records and your Ginsberg's book. You weren't so smiling when I still used to speak. You almighty or and queen. But now from this side, all in all, it's not bad as you can see it outside, but I'll never be paid. Far away, there are shameless kids showing their smiles, but I don't feel like doing the same. In my shell, there's nothing to laugh, nothing to cry for. It's just a trail of past wine. Follow you just like before, just like before, just like you before, just like you before, just like you before. Blu Radio Veneto Rock.